Salve. Buonasera. No, sì, lo so, non vedo la... Chi ora va? Ebbene, non entri. Qualcuno qua? Avanti. E avanti. Chi vuoi che sia, Natalie? Sempre solo io. Oioioi. Stavo mangiandomi, ho fatto una pausa. Hai visto com'è rinfrescato finalmente? Finalmente! Non ne potevo più di quel caldo. E a me lo dici. Vedo un casino che non si può riesce a... Allora, ieri mi è successo, no? Accendo il baracchino e sento silenzio assoluto. Proprio manco un filo. Premo la portante per un istante e mi farò smettere a fondo scala. Ho detto porca miseria, il vento ha fatto danno all'antenna o si è staccato qualcosa. Ho pensato a qualche danno fatto dal vento o dall'acqua. Se non che cos'era successo? Che siccome c'era temporale avevo staccato l'antenna, capito? Per evitare scariche statiche e mi ero dimenticato di riattaccarla. Dimentichi di riattaccarla, macello. Meno male che avevo premuto per pochi istanti, proprio qua, e vedevo che andava all'istante a fondo scala. Ho detto sì, qua danno ha fatto il vento o l'acqua. E invece era l'antenna staccata, il cavo staccato, te l'immaginici. E tu Natalie, a casa, vabbè giustamente, ieri ha piovuto, oggi ha piovuto, si sta bene a casa, no? Io ero costretto, ho dovuto formattare il computer, perché guarda, era in uno stato pietoso. Eia, tanto avevi tutto, sì, disco di installazione, tutto quanto, no? Sì, sì. E te l'ho detto, alla fine è meglio, se non si risolve, è meglio reinstallare tutto perché torna ex novo il computer. E infatti, quello tutto fatto bene, tanto le fotografie, tutte quelle cose, ce l'ho in un disco USB esterno, quindi non le perdo mai. E così faccio io, hard disk esterno, un hard disk, e salvo tutti i documenti, film, musica, foto, video, tutto lì salvo. E se no il baracchino sarebbe strapieno. Infatti, ma su questo non ho messo niente. Sono i programmi che mi servono e boh. Sì, sentite cosa ho detto, il baracchino sarebbe strapieno, il computer sarebbe strapieno. Infatti. Comunque qua sono contento che abbia piovuto, perché questo caldo prolungato era un po' troppo assillante e hanno detto che scenderanno anche le temperature un po', capito, ci sarà meno caldo per un po'. Eia. Caspita, ha fatto un ventaccio l'altra notte, minchia, ogni volta che fa vento forte temo per l'antenna, perché c'è abbastanza in alto rispetto a te, alla tua, e quella non fa una piega, non fa una piega, cioè non, si oscilla ma non si rovina, a meno che non venga un vento a 120 orari, cosa impossibile. Ma non capita. E infatti è poi che spengo il televisore, Mario. E intanto io devo andare, mi Natalie. Devo finire di mangiare. ho acceso così, ho provato, cioè sempre acceso, ho provato a chiamare, a fare un bip, a vedere se c'era qualcuno, qualche sopravvissuto. Ma io stavo, se non era il tuo quel bip, io stavo sempre rispondendo, ma non mi sentivi tu, boh? No, non ero il mio, io ho fatto un bip adesso e boh, te l'ho detto, stavo mangiando, era un'altra persona quella, che ovviamente non fa il bip e non risponde però. E infatti. Poi dal segnale dovresti riconoscermi, no? Che sono io, a meno che non fosse proprio forte il segnale di quello lì. No, l'ho manco guardato il segnale, ero intento al computer e per quello che non l'ho guardato, capito? Eia, l'altra volta ho sentito Pomponi al telefono, con questo fratello, mamma mia, se le è capitata la croce, quindi se quel fratello vive allettato altri 30 anni, loro 30 anni devono stare appresso a lui, mamma mia. Dio, ia. Chi si sa travagli da non far nessun di là. Esatto, quelli sono lavori che ho manco pagato, guarda. E pensare io che poi per nonna l'ho fatto, l'ho accudita, le facevo io la lavavo, capito? Il figlio se n'è sempre fregato. Io a nonna le ho fatto il bidet, i pochi barauli. Lei l'ha fatto quando ero piccolo io per me e io contraccambiato gliel'ho fatto quando era allettata lei. Davo da mangiare, insomma. Però nonna poi se n'è andata in cielo. Però quel fratello magari ti ho detto dura 20 anni, ti immagini, o 30, devono stare appresso a lui. E poi è stata, quella è stata colpa sua, capito? La beozia. Lui ha veramente ceduto e le conseguenze si sono fatte vedere, caspita, è già tanto che ne è uscito vivo. Però adesso la legge è migliore, dice che ti stipendiano pure e che poi la pensione passa a te, quella di tuo fratello o di chi è l'ammalato, automaticamente basta a te, ai familiari, basta. Anche se non la accudiscono, praticamente la sorella non la accudisce, gli tocca la metà della pensione. Invece a me quando è morto babbo e mamma, tutti e due, mi hanno lasciato a culo a terra, me ne hanno pigliato i ribinzioni e ciao padrù. Sì, lo Stato ti lascia a terra quando hai queste cose, adesso chissà che sia vero. Chissà che sia vero, così i familiari vengono anche remunerati un po' dalla fatica fatta. Oh, che strana che è la vita. E a me lo dici che io c'avevo a papà e a mamma, tutti e due, me li ho dovuti portare in campagna, a casa mia ho dovuto chiudere l'attività, perché babbo l'avevano reso un essere bovino, non comprendiamo anche un di ira. Gli hanno bruciato il cervello. Ma cosa ha avuto lui in origine? È una semplice anemia, non gli hanno fatto la trasfusione e praticamente gli hanno bruciato il cervello. C'è la sanità nostra, mi sempre, e poi adesso è ancora peggio, mi adesso è ancora peggio. Questo pronto soccorso è diventato peggio di quello di prima. Prima almeno, per come entravi nel corridoio, proprio dentro, c'erano varie stanze con vari letti dove facevano sedere le persone e ti accudivano quasi subito, io ricordo. Capito? Ti mettevano subito nel letto, ti facevano terapie d'urto se servivano. Adesso invece, come hanno spostato verso destra la cosa, no? Il pronto soccorso, c'hanno una mezza cameretta dove ti lasciano lì in barella, ti lasciano ore, se devi fare la pipì te la devi fare addosso, se devi vomitare ti lasciano vomitare, però poi ti fanno il cacciatone, capito? Prima non ti aiutano, poi ti sfidano se ti sei fatto addosso, se hai vomitato, capito? secondo me ha peggiorato il pronto soccorso nostro, ha peggiorato molto, poi le attese, 6 volte 8 ore, 10 ore, ma stiamo scherzando. Certo, chi è grave arriva in ambulanza e entra dentro, ma tocchiamo ferro, mai sia essere gravi. A mamma l'avevo lasciata nel corridoio sulla barella con un ictus in corso. Solo quando ho detto che stavo andando a denunciarli tutti al posto di polizia l'hanno presa, sino era assistendo in chimica con un ictus in corso. Figurati. Poi c'è da dire adesso, anche se ci sono le barelle ti fanno mettere su una barella, se no, Natalì, ti fanno mettere, come ha detto mamma, su una sedia, capito? Anche se stai molto male. Buoni biliardi e mosci. Oi oi. Purtroppo io mi ricordo una volta, anni fa, tanti anni fa, erano gli anni 90, ero andato al pronto soccorso perché, non so, mi ero un po' tagliato in una zona sporca, dov'è che ero passato non mi ricordo, e siccome temevo il tetano, perché io richiami ancora non li ho fatti, sono andato al pronto soccorso, ma mi hanno servito subito, mi hanno fatto entrare, mi hanno disinfettato il taglietto che me l'ho fatto, mi hanno fatto le immunoglobuline subito, capito? Ma non ero grave, eppure mi hanno servito subito, adesso è una cosa incredibile, è incredibile, guarda, è un pronto soccorso da terzo mondo. Ma fa assumerli i medici e gli infermieri che servono e farli travagliare a chi deve passare un primario e in chi vi deve controllare se sono travagliando in fretta e bene, e se no fura da riguglione. Eia, però hanno poco posto, prima ti ricordi entravi dentro, c'era il corridoio con tutte le stanze a sinistra e in ogni stanza vari letti o barelle, no, lettini erano, o barelle lettini, adesso non lo so, cioè almeno entravi subito, ti mettevano lì e cominciavano a chiederti qualcosa, adesso non hanno spazio lì, è diventata una cosa ridicola, ridicola, e vabbè, i politici col chiappe al caldo, capito, poi quando vanno in pensione hanno pensioni da nababbi, poi pagano le guerre, queste missioni di pace che poi sono guerre, e la sanità è nella cacca. Ehi, Natalia, mi è arrivata l'altra parte di pizza, dai, devo chiudere, qua lascio sempre acceso in speranza che entri qualcun altro, ma non entra nessuno, periodo strano, dai. Sì, infatti, vabbè, ci sentiamo quando sarà, anche intanto tu pur entri ogni morto di pappa. Ehi, Natalia, pensa che oggi avevo un bel sonno, stamattina non sono riuscito ad andare dove dovevo andare, e stasera c'era un film, La Battaglia di Midway, no, con Charlton Heston, un bel film, come mi sono sdraiato a letto, mi si chiudono gli occhi e mi sono perso tutto il film, ho anche sognato. Sono lenta, poi sai, siccome io mangio a queste ore barbare, anche se noi siamo al baracchino, questo mangiare alle 6:30, 7, mi spezza la serata, me la spezza, o mi decido a mangiare alle 4, cioè anticipare abbastanza il pranzo, che non si può vivere così, dai. Poi mi viene l'abbiocco e non rientro più, hai notato? Eia, e non è quello che non va bene così, no? Dove? Vorrei mettermi a posto come orari. Adesso parlando di altro, da Lidl mi ero preso questa sveglietta, orologio sveglietta radiocontrollata. Prende il segnale da Francoforte e ti dà l'ora esatta dell'orologio atomico, che dovrebbe essere il più preciso al mondo. Quindi fa da orologio, da sveglia, ti fa vedere ore, minuti, secondi, poi la data, giorno 30, mese, giugno, e giorno della settimana, venerdì, e poi la temperatura anche, 5 euro, da Lidl, della Auriol, io mi lamentavo che non avevo mai un orologio funzionante qua da vedere, adesso c'è tuttora, giorno da giorno, data, e anche il termometro. Buono, buono. Vabbè Natali, dai che finisco di mangiare, poi dopo vedrò se entro. Ricappa, volevo prendere anche a mia moglie perché quell'orologio, perché mia moglie se no non può spegnere il telefono. A chi non sta attento, come ti gli dà, tu va più io, ma la sveglia. Vabbè, adesso gliela comprerò. Domani intanto io è San Paganino. Domani te ne devi alzare per forza se vuoi soldi. Ma domani cos'è? Giornata di paga? Domani è uno. Ma è sabato, le banche sono chiuse, o tu da chi la ritiri, cioè dalle poste o alla banca? Dal banco, matto, delle poste, io manco fila faccio, dentro la scheda, brum, e mi dico di là. Ah, direttamente, noi abbiamo notato alla banca nostra che di sabato non arriva proprio, se il primo è sabato non arriva la pensione, arriva lunedì dopo, quindi domani niente, dopodomani niente, arriva il 3 è sicuro che la trovi. Perché loro il sabato non lavorano le banche. Eia, le poste sì invece, il sabato lavorano almeno fino alle, non mi ricordo a che ora chiudono, all'1 può essere. A mezzogiorno mi stava dicendo mia moglie, però io vado al banco perché me la ritiro la pensione, perché l'1 è accreditata, capito? Sia la mia che quella di mia moglie. Eia, beh, Natali dai, io ti dico dopo. Se non entro ritieniti salutato, ok? Va bene, altrettanto. Chi è? Alla Leale. Beh, buonanotte mi. Ciccolo 10.